Le labbra fanno la differenza in un volto, in un viso. L'estate fa strani scherzi sulla bocca, in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Contro vento, senza un filo di trucco, le ragazze son belle, sono piene di vita. Questa notte è un frigorifero rotto, è una canzone che non fa dormire. E lo sogno a bestia, una pioggia tropicale, dove siamo sole, tu inizi a ballare. Io ti vengo appresso, ritmo animale, baby siamo in aria, siamo pronti a colpire. Come tu spari in un bar, come tu spari in un bar, come tu spari. Noi crediamo in Robert De Niro, nella tigre del non procent, nella storia che sanno tutti, Maradona è meglio di Pelé. Le labbra fanno la differenza.